Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le sue condizioni sono gravi. Ha riportato un trauma cranico ed importanti emorragie delle vie aeree superiori. Chi l'ha ridotto in fin di vita è fuggito senza prestare soccorso. Secondo alcune testimonianze, alla guida dell'auto che ha centrato in pieno il dodicenne, che ha fatto un volo di 20 metri, c'era una donna. Secondo i carabinieri, potrebbero infatti portare all'identificazione dell'uomo che mercoledì scorso, alla guida di un SUV rubato, ha travolto e ucciso a Padova un pensionato di 77 anni, dandosi poi alla fuga. Il pirata della strada probabilmente ha già lasciato l'Italia, forse con l'aiuto di alcuni connazionali. Si cerca un uomo sulla Trentina, alto circa 1,70 m, di carnagione chiara e capelli corti, che al momento dell'incidente indossava jeans e una maglia a righe orizzontali. Io penso che statisticamente uno degli eventi di cronaca che più indignano le persone che immediatamente poi vanno a twittare il loro punto di vista, a scriverlo comunque in un social network, quando si legge di un incidente stradale particolarmente cruento, con vittime, con morti, il cui responsabile è uno o più automobilisti che era sotto effetto di droga, in stato di ebbrezza, non cosciente di se stesso, incapace di gestire l'automezzo. Questo fa sì che si arrivi alla conclusione che esista una sorta di ineluttabilità per cui queste cose accadono, debbono accadere, continueranno a accadere, e puntualmente, dopo un periodo non eccessivo di tempo, si legge la successiva notizia che fa ancora più arrabbiare le persone che lanciano i loro pareri avvelenati sempre sui social network, che il responsabile di questo incidente è stato rilasciato e a piede libero. Perché? Perché in fondo non è che sia un reato gravissimo fare una cosa del genere, tanto che viene da pensare che semmai in un recesso riprovevole e detestabile della propria coscienza qualcuno volesse far fuori un'altra persona, non dovrebbe andare a cercare, come molti fanno in internet, un probabile serial killer a pagamento, non dovrebbe andare in giro per ferramenta a cercare mazze ferrate o motoseghe, ma semplicemente potrebbe mettersi alla guida della propria automobile perfettamente sobrio, così non ci sono nemmeno le circostanze aggravanti, aspettare che esca di casa, partire con l'automobile, mettere la prima, la seconda, la terza, dare una sgassata e farlo fuori. La sequenza è da film dell'orrore, ma è reale. La modalità, difficile da capire e da spiegare. Come abbia potuto una donna alla guida di un'auto non accorgersi della ragazza che aveva appena investito, trascinandola per diversi chilometri, è incomprensibile. Stava andando a piedi a trovare la nonna, quando poco distante da casa, a Santa Giustina in Colle, provincia di Padova, è stata colpita con violenza da una jeep guidata da una 62enne. L'impatto ha distrutto uno dei due fanali anteriori, ma l'anziana ha continuato a guidare senza fermarsi ed è rientrata a casa, parcheggiando il SUV, il corpo martoriato della ragazza ancora incastrato tra le lamiere. Sono stati alcuni testimoni ad avvertire i carabinieri che, seguendo la scia di sangue... Non voglio interrompere il pathos della trasmissione, ma mi piacerebbe una volta chiamare al telefono l'ascoltatore che un istante dopo il mio inizio del programma mi scrive questo SMS: quest'anno ti hanno dimezzato la durata del programma, l'anno prossimo ti segano. Adios Nicoletti. Vabbè, ognuno ha i suoi sport. Se lui fa bene durante la giornata a fare questo SMS, perdere tempo, realmente l'ha già memorizzato, sono già giorni che me lo vedo, e accetto la sua profezia, ce ne faremo una ragione. Dicevo, tornando all'argomento del giorno, che non sempre, non necessariamente, anche se è la circostanza che ci fa indignare, il responsabile di un incidente stradale cruento, responsabile quindi lievemente toccato da quelle che sono le conseguenze della legge per il suo gesto, è drogato, è sotto effetto di alcol, di stupefacenti, molte volte è una persona che in maniera del tutto imprudente sta guidando la propria automobile, percorre una strada che non deve percorrere, non osserva il codice della strada, sta semplicemente scappando da qualche altra parte, o è semplicemente una persona che ha superato i limiti d'età accettabili per guidare l'automobile per un problema che abbiamo già più volte toccato, per la scarsezza di controllo, per la pressapochismo in cui vengono dati i rinnovi delle patenti, insomma è una sorta di pericolo pubblico ambulante, ma ancora alla guida di un'automobile. Perché parlo di questo? Parlo di questo perché c'è una novità. Leggo che il sottosegretario dei trasporti Erasmo D'Angelis ha fatto ieri una dichiarazione annunciandoci che c'è un'azione all'acre tra governo e commissione trasporti della Camera per rimettere finalmente mano al nostro codice della strada, che è un mammozzone antiquato, anni 50, dove ancora quando si parla di biciclette si dice velocipedi, e soprattutto è autocentrico, è fatto proprio come se soltanto automobili camminassero sulle strade, quindi c'è tutta una materia nuova da riportare in superficie, i guidatori a due ruote, c'è uno snellimento di normative, però la cosa che più ci interessa pare sia proprio l'introduzione di quello che da anni si aspettano associazioni di familiari di persone che sono perite in incidenti stradali, che sia finalmente contemplato il reato di omicidio stradale. Avvocato Gianmarco Cesari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Intanto gli ascoltatori che hanno interesse personale, viscerale, familiare a questo problema, cioè alla introduzione del reato di omicidio stradale, possono chiamare all'800240024, perché siamo proprio in questa mattina attenti a quello che probabilmente sarà un cambio epocale nel nostro codice della strada. L'avvocato Gianmarco Cesari, fra le tantissime sue cariche, avvocato all'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che ha anche un sito internet www.vittimestrada.org. Ce l'avete fatta, pare, avvocato, finalmente ci siamo sentiti più volte in varie trasmissioni, sì. Siamo vicini, ma qual era il motivo per cui sembrava così difficile una cosa così lapalissiana, una persona che da ubriaco, da incosciente o da sventato uccide un'altra persona con un'automobile, la stessa cosa che lo facesse con una mazza da baseball? Infatti, anche perché l'automobile, se lanciata a una velocità che supera i 30 orari, è un'arma che può uccidere. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta prima con la legislatura precedente, perché i disegni di legge che erano stati presentati prevedevano una forma di reato doloso, intenzionale, come omicidio stradale. Stiamo invece facendo un passaggio giuridico importante, cioè una rivalutazione dell'omicidio stradale come omicidio colposo, come atto criminale, soprattutto quando la condotta di guida viola alcune disposizioni del codice della strada specifiche che sono state individuate come guida azzardata, temeraria e pericolosa. Faccio un esempio: passaggio col rosso, velocità che supera il limite di oltre un novantesimo, oppure una inversione di marcia dove non si può fare, oppure una marcia contromano reiterata, per addirittura, come succede tante volte. Quindi la differenza tra omicidio colposo, cioè dato per una disattenzione, una colpa, omicidio volontario, proprio come se tu avessi in quel momento avuto la precisa intenzione di uccidere una persona. Esatto, però la beh, parola è forte come sì. Assunto, Però noi vogliamo far passare un reato d'omicidio stradale all'interno del reato dell'articolo 589 che già esiste del codice penale, con una previsione che in corrispondenza di alcune violazioni specifiche del codice della strada che rivelano efferatezza, pericolosità, azzardo e temerarietà, in questi casi la pena sia insensibilmente inasprita. Perché il problema qual è? Il problema attuale è che la norma, già come è stata concepita con l'aggravante anche per la violazione del 186 e del 187 del codice della strada, che prevedono la guida sotto alcol e droga, già sono, diciamo, prevedono una pena che arriva nel massimo a 7 anni, e nel caso di uccisione di più persone oppure la morte di una persona e il ferimento di un'altra si potrebbe arrivare in teoria fino a 15 anni. Ma cosa succede? Ecco, perché la sensazione generale è che ci sia un'impunità riguardo a questo reato? I procuratori della Repubblica e i giudici partono sempre dal minimo della pena nel condannare i criminali stradali. Quindi è lì che il popolo italiano si indigna. Ma qual è una percezione che non sia un atto criminale, in fondo un atto dato da altre disattenzioni? Non ci sia una volontà di uccidere. Quindi voi chiedete, come familiari delle... Quanti siete familiari delle vittime? La nostra associazione conta un 5.000 familiari superstiti, perché è l'associazione che vive ormai dal 2000, e dal 2000 ha lottato per far capire che l'incidente stradale non è una fatalità, ma è un atto criminale. Siamo noi che abbiamo introdotto il concetto per un cambio culturale di criminalità. Ecco, il cambio culturale sarebbe questo. Vediamo se riesco a decodificare bene quello che lei dice in termini di esattezza giuridica. Non può più pensare che una persona che non osservi alcune regole della strada, che non abbia la percezione della sua totale lucidità quando si mette al volante, che sia trascurato e per di peggio, per di più, che si droghi o che beva, non possa essere assimilabile a una persona che esce di casa come un pazzo con un fucile a pompa sotto mano e voglia uccidere qualcuno. Antonio, buongiorno. Ascolti, io mi sono permesso di telefonare per un motivo molto importante. Io sono quel signore che esattamente già nel 2007, a marzo, ho inventato e brevettato l'etilometro digitale blocca motore. Come funziona? Funziona semplicemente. La persona che è davanti al posto di guida, senza soffiare in alcun tubo o niente, se il mio dispositivo è già stato testato, la Fiat me l'ha già comprovato. Ma come funziona? C'è un cannellino nel sedere collegato? No, per capire. Sono due micro ventole fatte a turbina in miniatura. Ah, dalla fiatata alcolica capisce se uno ha bevuto. Non dalla fiatata, nessuna fiatata, dall'alito. La fiatata è quando uno soffia. Ah. Capisce se la persona ha assunto sostanze stupefacenti o ha superato il limite di soglia del tasso alcolico. E cosa accade quando diciamo la centralina avverte che c'è aria? Il mezzo non parte, il mezzo si blocca, non va nemmeno in moto. Automaticamente a richiesta può partire un SMS che va all'azienda, nel caso fosse uno scuolabus, che ce ne sarebbe bisogno, o alla famiglia dicendo lo stato psicofisico della persona che era al momento di guida. Cioè si accende l'immagine di Super Chuck e dice sta attenta che tuo marito, tuo padre, beh è geniale, figlio, ma è riuscito a vendere questo brevetto? Non arriverà alle 5 del mattino, ma se non arriva non perché si è ammazzato contro qualcun altro, ma perché si è addormentato in macchina, perché la macchina non partiva. Ma è riuscito a venderlo questo brevetto? Cioè qualcuno l'ha preso sul serio? I vari ministeri, tutti quanti, difatti prima parlò anche il dottor D'Angela, che io stimo, per l'amor di D'Angelis, che io stimo tantissimo. Questo lo sapevano i vari ministeri all'epoca con Matteoli, mi hanno fatto i plausi, ho vinto anche il secondo premio a laurea internazionale. Sulla però non si è ancora visto qualcuno che mette a mano al portafoglio e dire questo fantastico brevetto. Ma quello al limite posso costruire anch'io. Ci vorrebbe qualcuno che dicesse sì, le pene pecuniarie, aumentiamo le pene, ma la persona quando è drogata e ubriaca, nel momento che guida, non si ricorda le pene. Diciamo, però, adesso l'ho fatta parlare perché è interessante, Antonio, ma è un altro tipo di problema. Lei ha uno strumento tecnicamente da vedere, ma probabilmente perfettamente funzionante, che vale come deterrente preventivo, dice ti siedi, non parte la macchina perché tu hai bevuto. Lei sa che poi se vuole uno si mette la mascherina, mangia le mentine, ci sono mille modi per eluderlo, però il problema è un altro: chi comunque non osserva queste regole uccide, ammazza, e si sta cominciando a pensare questo uccidere sia assimilabile a un omicidio. Marco, velocemente. Buongiorno Nicoletti. Sì. Io volevo mettere altre due questioni. La prima è che in Italia, e nonostante siano anni che le cinture di sicurezza sono obbligatorie, non le ha nessuno, nessuno controlla le gomme se sono lisce, consumate o altro, e questo, cioè, non è solo l'alcol o non alcol, perché uno può essere anche sobrio, ma se è una macchina che in condizioni indecenti nessuno lo ferma, e io quando faccio 50.000 km all'anno ne vedo di tutte. Ad esempio, la gente che non controlla, diciamo, non fa i tagliandi necessari. Ma non tagliandi, proprio il minimo: gomme sgonfie, gomme completamente consumate. Allora, senta, Marco, lei ha introdotto una parte molto interessante, questo argomento. Diamo le informazioni del traffico, poi sentiamo dall'avvocato Gianmarco Cesare se nell'idea di questa legge che si sta costruendo ci sia anche un difetto di manutenzione dell'automezzo, che equivale comunque a una guida pericolosa. Se io trascuro la manutenzione delle gomme, è una macchina pericolosa. Melog. Cronache meridiane. Qual è secondo voi la giusta pena per chi in maniera irresponsabile uccide una persona alla guida della propria automobile? Sì, perché è all'attenzione del Ministero dei Trasporti, della Commissione di Trasporti alla Camera, un inasprimento nel nuovo codice della strada che stanno pensando, in cui è di pene, per cui è previsto un omicidio vero e proprio, un omicidio volontario, per chi uccide una persona alla guida della propria automobile. Cosa ne pensate? 800240024, qualcuno mi scrive, ma l'abolizione della pena di morte non è servita a eliminare la criminalità, quindi questo non servirà a niente. Beh, secondo me non è esattamente così. Intanto Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dunque io no, praticamente ho telefonato perché l'argomento mi interessa parecchio. Anch'io, influenzato dai media, ero in un primo momento per l'inasprimento delle pene, perché effettivamente l'autovettura è un'arma, se uno la guida così da spericolato effettivamente può arrecare dei danni seri. E poi però mi è successa una cosa: facendo volontariato ho conosciuto personalmente una persona, un ragazzo molto giovane, che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, o meglio diciamo che si stava andando credo ad acquistare la droga, quindi forse era in astinenza, non era magari sotto l'effetto vero e proprio, comunque insomma ci siamo capiti, ha falciato una famiglia, mamma e figlio, lei col passeggino, quindi una tragedia veramente, cioè queste persone passavano sulle strisce pedonali in un corso a percorrenza veloce, insomma ha compiuto sotto effetto la droga il più spregevole dei delitti, droga, quelle cose che ti rimangono sulla coscienza immancabilmente senza nessuna possibilità di remissione. Lui diceva non era sotto effetto, ma stava andando, era in carenza di effetto, quindi stava male perché non aveva comunque, la sostanza. Qual è la sintesi? Comunque, qual è il suo pensiero? La sintesi è che io ho dovuto ricredermi, perché conoscendo questa persona ho capito che in realtà è veramente sbagliato paragonare una tragedia del genere a un omicidio volontario, perché vi giuro che questa persona tutto è tranne che un assassino volontario, nel senso che non sì, aveva però, ho capito Paolo, però il fatto che si inasprisca la pena fa sì che il signore, anche se va a comprarsi la droga perché ha la scimmia sulla spalla e sono fatti suoi, non lo giudico, non ci va in automobile, ci va con l'autobus o fa l'autostop, così comincerà a capire. Io capisco che il povero giovane, una volta disintossicato, si è ravveduto e se la sogna la notte, la bambina sulla carrozzina e la mamma che ha ammazzato, ma si metta nei panni del legittimo marito, della sorella, degli amici di famiglia, non credo che avranno lo stessa comprensione che ha lei. Avvocato Gianmarco Cesari della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, rispondiamo a tutte le domande che sono state fatte, cominciando da quest'ultimo ascoltatore. Quest'ultima ha ragione, perché l'omicidio stradale non può essere categorizzato solo come omicidio volontario, perché anche chi guida con azzardo e temerarietà, nel caso di specie falciando una famiglia intera, deve necessariamente avere una pena congrua rispetto alla gravità del reato e alle conseguenze dannose che ha causato. Quindi non si chiama nella stessa maniera, ma diciamo ha un carico di pena che potrebbe essere assimilabile. Il problema dell'omicidio stradale è legato alla sottovalutazione del reato di omicidio colposo attuale nelle aule di giustizia, per cui si parte sempre dal minimo della pena e il criminale stradale torna sempre a casa dal tribunale e non gli viene revocata la patria. Vabbè, è una sottilezza lessicale, non si chiama omicidio volontario, ma è un omicidio, esatto, ti do il carico dell'omicidio. Sì, è importante, certo. Questo è importante, un inasprimento della pena per alcune violazioni specifiche del codice della compresa strada, la trascuratezza della manutenzione, come dice l'ascoltatore, compresa anche, però si tratta anche di attuare delle norme satelliti nel codice della strada, per cui come nel caso di specie, se io non curo la manutenzione del veicolo e lo rendo pericoloso per me e per che guido e per gli altri che all'esterno, in questo caso ci dovrebbe essere la confisca del veicolo e la sospensione, almeno per 2 anni mettiamo della patente. In questo caso tutti saremo attenti a mantenere in perfetta efficienza il veicolo. Il passaggio però fondamentale che occorre stabilire con una riforma è un inasprimento delle pene per l'omicidio stradale, di modo che non ci sia il classico sconto di pena con patteggiamento, riti alternativi e sospensione condizionale della pena con le attenuanti generiche, per cui si sconta sempre la pena di 2/3 e si torna sempre a casa come se non è successo. Non solo, si ritorna a guidare, perché alla pena per l'omicidio colposo stradale corrisponde una sospensione della patente. Ci fermiamo, avvocato, la sigla ci porta via, torneremo in corso d'opera su questo argomento che vedo che è molto seguito dagli ascoltatori, compreso quello che mi augura di essere segato quanto prima. A domani.